Diamo il buonasera al primo ospite di questa sera, Marco Cassini, della casa editrice Sur. Ciao. Ciao Marco. Ciao, buonasera. Eccoti Marco. Allora, oggi parliamo di un libro che io sto leggendo, non ho ancora finito, sto a due terzi del libro, quindi non facciamo spoiler, ma non serve, questo non è un libro che, per cui lo spoiler chissà cosa sposta nella narrazione di questo romanzo. Parliamo del libro di questa autrice, Camila Sosa Villada. Ovviamente per noi romani Villada ci riporta a tutt'altro immaginario, e quindi è. Però è questa autrice, cioè lei è scrittrice, attrice, una vera e propria performer argentina, che è uscita con questo romanzo da poco, ma è stato un romanzo che ha subito lasciato il segno, perché mi sembra che a parte le risposte, le critiche e tutto, io da lettore invece mi sta appassionando e mi sta piacendo molto. Fondamentalmente vado a spiegare in breve che cos'è questo libro. È una sorta di memoir, romanzo, in cui l'autrice racconta autofiction, in cui l'autrice racconta parte della sua vita e parte no. Lei è una donna trans che racconta di questa, cioè di questo gruppo di donne trans piuttosto giovane, che a fine anni 90 nella città di Cordoba, una città argentina, si prostituivano, ma soprattutto facevano gruppo, facevano gang, mettiamola così, no? Facevano banda, che anche quegli strumenti, se vogliamo, anche di autodifesa per chi vive la strada e vive la notte, e da qui tutta una serie di altre cose che poi andremo magari a raccontare insieme. Bene, cosa posso aggiungere? Facciamo questo sforzo, che io non so se ci riesco, proverò appunto per evitare confusione col toponimo del parco romano, proverò a chiamarlo con un accento spagnolo, Villada, Camila Sosa Villada, o se dovessimo dirlo all'argentina, Villada, ma insomma adesso queste sono sofisticherie. Dunque, Camila, hai raccontato molto bene, hai riassunto molto bene, quindi capisco che ti manca poco. Quello che posso aggiungere è l'origine di questo libro. Il libro diventa tale dopo che Camila qualche anno fa, appunto per la sua attività, tu ricordavi bene, di attrice e performer, era stata invitata a tenere una TED Lecture appunto in Argentina. Un editore l'ha sentita, si è commosso, si è divertito, si è impressionato di questa storia, della franchezza e della anche bellezza con cui Camila lo raccontava, e gli ha chiesto di farlo diventare un libro. E libro che peraltro, io sono particolarmente legato a questo libro, si sa che gli editori non dovrebbero mai dire se hanno dei libri preferiti rispetto ad altri, insomma poi giustamente gli altri autori, le altre autrici potrebbero aversene a male. Devo dire che io ci sono legato per un motivo particolare, è stata proprio la prima lettura che mi è capitato di fare nel marzo dello scorso anno, mentre eravamo tutti chiusi in casa. Allora, quando ho letto questo libro, non so se a te è capitato, se nei due testi che hai letto ti sei commosso, io devo dire a un certo punto proprio senza vergogna ho pianto come un agnellino. No, ci sono delle parti molto forti, alcune me le sono segnate. Di questo romanzo io, appunto, come raccontavi tu, no? Io ho apprezzato il fatto che lei anche nei momenti più tragici, no? Se vogliamo più drammatici, più forti, più pesanti, usiamo il termine che ci pare, riesce sempre comunque a mantenere uno sguardo, non dico leggero, che forse non è la parola giusta, però riesce sempre a sorridere anche nei momenti peggiori del suo racconto. Lei riesce ad avere questo approccio, esatto, no? In cui la sofferenza diventa in qualche modo lei contrappone questi sentimenti alla sofferenza, contrappone un, tra virgolette, ovviamente, gioia, divertimento. Una levità forse, sì, anche io avrei usato la parola leggerezza. Comunque, per finire l'aneddoto, insomma, io ho pianto talmente tanto che quando ne abbiamo parlato poi in riunione di redazione, nelle prime riunioni su Zoom che si facevano in quei giorni in cui nessuno capiva come stava cambiando il mondo e anche la quotidianità, dissi: ragazzi, io ve lo devo dire, mi sono commosso, proprio pianto a un certo punto. Poi ci sono dei momenti in cui ti ride, e mi ha detto: però non so, probabilmente questa commozione, questa tensione io l'ho sentita soltanto perché l'ho letto in questo momento, siamo tutti preoccupati, erano proprio i primi giorni quelli in cui ci si affacciava al balcone a cantare tutti insieme, insomma quei momenti lì di disorientamento. E invece devo dire che ora il libro è uscito ancora da poco, saranno un paio di settimane, però sta avendo, come dicevi anche tu, dei riscontri, e devo dire che ne abbiamo avuti anche di lettori che ci scrivono, che ci raccontano, che incontriamo, e devo dire che molti anche mi hanno detto di essersi commossi, e quindi ho detto vabbè dai, allora forse non era solo una questione dovuta al lockdown, è proprio che il libro ha una sua potenza, una sua particolarità che per certi versi lo rende unico. Ci sono anche degli aspetti, se vogliamo, molto prendendo la definizione sempre piuttosto controversa, con le dovute pinze, però diciamo ci sono addirittura dei momenti in cui si sfiora il realismo magico, ci sono dei personaggi, credo ci sia già arrivato, appunto non sto facendo spoiler, ma definiti gli uomini senza testa. Esatto, che racconta attraverso, no, perché poi lei in questo, in tutto questo, lei riesce a fare questo racconto in cui poi in questo racconto lei c'è anche la descrizione delle sue compagne di avventura, chiamiamola avventura se possibile, e tra cui alcuni personaggi, tu ne hai citato uno che è un personaggio che avrebbe 168 anni secondo l'autrice. Esatto. Ovviamente gioca, la no? Zia incarna. Esatto. La zia incarna è una figura chiave, perché come anticipavi queste sono quasi un gruppo di quasi tutte trans, ma c'è anche una donna nata donna, diciamo, questa transizione in questo gruppo, che per certi versi, insomma, come tutto è facile che venga percepito in maniera diversa, spostando un po' il punto di osservazione, è percepita come quella anomala, no? Un po' strana nel gruppo, ma la particolarità è che, vuoi per vicissitudini, appunto a volte anche dolorose, perché nella prostituzione che lei racconta ci sono anche episodi di violenza, furti, botte, insomma i clienti non sa mai che cosa, in che modo ti condurranno a terminare la serata, e quindi c'è questa zia in carne che appunto avrebbe l'età che ricorda appunto un personaggio alla Garcia Marquez, no? di 100, quasi 170 anni, che prende pian piano sotto la sua ala protettiva tutte queste trans che la sera animano il Parco Sarmiento di Cordova e la casa rosa del più rosa, del rosa più trans che ci sia, no? La casa della zia Incarna. Sì, tra l'altro, no? C'è pure questo aneddoto. Loro giocano molto anche sull'umorismo, c'è anche molta autoironia, ovviamente ci sono dei momenti anche piuttosto drammatici, chiaramente uno, almeno per me, uno dei momenti più toccanti è quando la protagonista, che appunto è molto basata ovviamente sulla storia personale vera dell'autrice, racconta il momento in cui c'è stata la rottura con i genitori, in particolare con il padre, che già alle prime avvisaglie di questo suo figlio maschio che si truccava, che si vestiva da donna, anche in un momento storico o in un ambiente culturale non troppo preparato, parliamo inoltre anche di 30 anni fa, non riusciva a sopportare questa cosa, e quindi c'è proprio una rottura grave con la famiglia che non si riuscirà mai più a sanare. Marco, scusa se ti interrompo, però visto che stai insomma parlando anche di questa di questo aspetto, era anche per ampliare un po' il discorso oltre al romanzo. A parte tutte le formule che insomma i vari personaggi anche mitici che compaiono in un certo modo, leggendo il romanzo mi sono venuto in mente anche ci sono alcune figure che sono molto simili a quelle della storia orale, della tradizione orale argentina, e ce n'è una in particolare che è quella della Llorona, che in parte assomiglia molto ad alcuni personaggi, sembra che ci siano tante Llorone all'interno del romanzo, e è proprio uno dei personaggi diciamo chiave dell'oralità argentina e soprattutto a Cordoba, proprio quindi da dove viene il romanzo. La Llorona, cerco di spiegarlo brevemente, non me ne vogliano gli antropologi all'ascolto, ma insomma si dice che era una donna, una figura mitologica che uccideva i propri figli gettandoli nel fiume e poi si uccideva a sua volta. e la lascio lì. Quindi in parte ci ho rivisto questa figura. Ora non so se è più o meno azzeccata come similitudine, ma è quella che ci ho letto io. Guarda, sì, è possibile che ci siano, oltre a queste, magari anche delle altre figure archetipiche che io, per esempio, non essendo appunto un antropologo, magari non ho colto. C'è, per esempio, il mito, se vogliamo, per certi casi, in certi casi ambito, in altri negato, della maternità. Una delle scene più belle è il momento in cui questo gruppo di trans trovano nel parco, in mezzo ai rovi, un bambino, e decidono di adottarlo, portandolo in questa comune dove vivono numerose, e tutte si prenderanno cura del bambino, ovviamente ognuna confrontandosi con la possibile versione di maternità che quel bambino in quel momento, che a volte qualcuno tiene in braccio, qualcuno addirittura finge di allattare. Guarda, io stavo cercando uno dei pezzi che mi è piaciuto moltissimo del libro, proprio riguardo, eccolo qua, no? L'ho trovato, e quindi ora lo vado a leggere nel mio modo di leggere, che non è sicuramente il più entusiasmante in circolazione, però ci provo, perché proprio, eccola qua, siamo sul pezzo, no, in cui lei, l'autrice, racconta, no, della casa. Eccolo qui: il bambino annusa la tetta dura e gigante e si attacca con tranquillità. Non potrà cavare da quel capezzolo nemmeno una sola goccia di latte, ma la donna trans che lo tiene tra le braccia finge di allattarlo cantandogli una ninna nanna. Nessuno a questo mondo ha mai davvero dormito se una trans non gli ha cantato una ninna nanna. Beh, sì, questo è proprio uno dei momenti toccanti, anche lirici, se vogliamo. Il libro non tocca mai i toni lirici volutamente, se non a volte lo fa, per poi subito dopo rivoltare un po' le budella del lettore, magari con una scena esilarante per riabbassare un po' il tono. Ed è, mi sembra, la cifra più caratteristica della scrittura di questa autrice, che al momento ha scritto solo, o meglio, in Italia abbiamo letto ancora solo questo testo. È una figura che è diventata immediatamente di spicco, ha vinto ovviamente con il giusto entusiasmo della comunità LGBTQ il premio che ogni anno viene dato in America Latina al miglior libro scritto da scrittrici, da donne, ed è la prima volta che veniva dato a una donna trans, quindi è stato anche un piccolo traguardo ulteriore che va al di là delle capacità e del risultato artistico, perché chiaramente è un segnale molto forte anche dal punto di vista proprio sociale, diciamo. Tra l'altro il premio è anche intitolato a una suora, e lei ci scherza quando va a ritirare il premio, dice: chi se lo sarebbe aspettato 10 anni fa che premiavano una donna trans con un premio dedicato a una suora? E quella è la roba, insomma, che fa sorridere. No, io ho una domanda invece proprio che riguarda te in quanto autore di fascette. Tu e prima hai fatto riferimento a quello che succedeva durante la pandemia, e a un certo punto tu hai scritto un tweet dicendo: autofiction, forza e coraggio, colleghi editori, dalla peste del 1630 ci sono voluti 200 anni d'autofiction de merda prima che arrivasse Manzoni. Dovendo fare una fascetta onesta invece su questo libro, sulle cattive, che fascetta onesta faresti? Oddio, mi metti un po' in difficoltà, forse dobbiamo anche costruire un po' di contesto per chi ci sta ascoltando, sì, che dirà che sì, cos'è, scusami, la fascetta onesta. Niente, era un giochino che era stato lanciato qualche, credo, un paio d'anni fa, forse sì, di più, 3-4 anni fa, su Twitter, a cui si è divertita a collaborare, insomma, a giocare buona parte della bolla alla quale appartengo, che ovviamente è fatta soprattutto di persone dell'editoria, quindi scrittori, editor, giornalisti, eccetera. Ed era appunto l'idea, dato che nelle fascette che pubblicizzano i libri normalmente si scrivono grandi complimenti, non potrebbe essere altrimenti. Io mi chiedevo che cosa scriverebbero gli editori se dovessero appunto dire la verità, no? Normalmente si scrive 3 milioni di copie e poi in realtà ha venduto molto meno, oppure il più grande capolavoro invece è un libro così così, e quindi insomma molti hanno giocato a questo, e quindi adesso mi ferisci con la mia stessa arma, perché mi chiedi di fare una fascetta onesta sulle cattive. Potresti fare il libro che è piaciuto a Tabula Rasa, per esempio. Mamma mia, così la cosa bellissimo. Così, no? Che nessuno mi conosce, però sai, voi metti, proprio perché nessuno ci conosce. È ancora più ricercato. No, io ho un suggerimento che potrebbe essere parte della... cioè è proprio una citazione che viene dal libro che mi è piaciuta tantissimo, che dice: ciò che la natura non ti dà te lo presta l'inferno. E secondo me è una coltellata bellissima, soprattutto letta in questi giorni. Insomma, ora non vorrei attualizzare troppo il libro, però in effetti è così. Il 20 novembre è il Transgender Day of Remembrance, cioè è la ricorrenza, insomma, delle comunità LGBT per commemorare le vittime di, insomma, dell'odio e del pregiudizio verso le persone transgender. Mi sembra quanto più attuale sia il libro, ma anche proprio la scrittura, il come veniva detto precedentemente, come viene trattato il libro e anche la dignità di chi scrive, che è, insomma, è merce piuttosto rara, ecco. Va bene, e dato che, come dicevamo, appunto, dopo un momento serio bisogna subito sbracare con una fesseria, per riabbassare il tono, l'avevi alzato un po' troppo, mi stavo commuovendo persino io. Voglio dirvi che pochi giorni fa, quindi magari anche se con qualche ora di ritardo, leviamo i calici e festeggiamo, Camila su Twitter ha festeggiato il compleanno delle sue tette. Le ha chiamate per nome, ora devo dire la verità, non mi ricordo come si chiamano, ma le ha mostrate, anche se insomma ovviamente un po' coperte, e ha detto di unirsi a lei nel festeggiamento del compleanno delle sue due tette. E quindi direi che mi sembra il modo per alzare i calici. Noi abbiamo anche qua dei bicchieri. Io vado a rileggere un altro stralcio tra quelli che mi ero segnato, sono tantissimi, e quindi mo mi fermo con l'ultimo. Visto che avevamo parlato della zia Incarna, tra l'altro anche un nome particolare, no, per noi che parliamo italiano. La zia Incarna era arrivata a Cordoba da giovanissima, quando ancora si poteva risalire in barca il fiume Sucuia senza sprofondare nella spazzatura. Si era circondata di donne trans per tutta la vita, ci difendeva dalla polizia, ci dava consigli quando avevamo il cuore spezzato, voleva che ci emancipassimo dagli uomini, che ci liberassimo, che non ci bevessimo la storia dell'amore romantico, che ci occupassimo d'altro, noi le emancipate dal capitalismo, dalla famiglia e dalla previdenza sociale. Penso che sembra quasi un manifesto politico questo stralcio. Io l'ho trovato, sì, bellissimo. Cioè, ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti, no, ne ho segnati tanti. Cominciamo dai primi proprio per ordine. Parliamo dei piccoli numeri che può raggiungere una casa editrice delle dimensioni di Sur, ma anche qui, così, io mi auguro sempre che tutti voi abbiate un bicchiere a portata di mano a quest'ora, e quindi dico, leviamo di nuovo i calici, perché giusto oggi abbiamo dato l'ordine alla tipografia di fare la prima ristampa di questo libro. Ripeto, appunto, non stiamo parlando di, sì, no, di certo, numeri da classifica, però siamo contenti. Eravamo stati anche cautamente ottimisti sulla prima tiratura, invece è finita dopo due settimane, e quindi oggi abbiamo mandato in stampa una nuova piccola tiratura. A proposito, prima avevi citato l'inferno e ho detto adesso faccio il colpo di riuscire a trovare la citazione, e non mi ricordavo che era sulla quarta di copertina, quindi è stata molto facile trovarla, che è anche qui forse un po' sintetica dello stile dell'autrice. Dice: ogni notte le trans riemergono da quell'inferno di cui nessuno scrive per restituire la primavera al mondo. Di questa frase che abbiamo deciso di mettere in quarta di copertina, a me la cosa che piace di più è l'accostamento. Una volta che si parla di inferno, subito uno penserebbe che quello che le trans riescono a restituire al mondo per bilanciare quell'inferno sia un paradiso, e invece dice no, dall'inferno noi invece creiamo la primavera. Sì. Quindi anche un accostamento di due elementi diversi tra loro che insomma ci ha colpito, oltre a restituire ancora questo questo via e vai, vai e vieni tra due mondi difficili, appunto l'inferno che per molti è la vita, per molti dei protagonisti, delle protagoniste del libro è un po' la vita che rischiano di fare tutti i giorni, e di cui nessuno scrive, che non è una frase da poco ovviamente, perché lei invece si è presa l'impegno di raccontarlo questo mondo da lì dentro, e trasformarlo in primavera. Ecco, questo è un po' questo continuo andirivieni del libro, come dicevamo prima, no? tra momenti molto toccanti, altri molto divertenti, altri di grande leggerezza, come dicevi prima, insieme a messaggi piuttosto significativi, però mai dichiaratamente messaggi, diciamo così, lo si coglie nel segno, non è un libro assertivo, non è un libro che vuole prendere posizioni teoriche, ma lo fa semplicemente nei fatti, diciamo, sia nella scrittura. Assolutamente. Senti Marco, per chiudere, noi la domanda di rito che facciamo a Tabula Rasa, se ci puoi segnalare un libro che stai leggendo in questi giorni o un libro assolutamente da leggere, scegli tu quale dei una due. Una roba che hai detto che ti è piaciuta e che ti spingeresti. È una cosa che sto proprio leggendo in questi giorni e mi sta molto sorprendendo, è un libro scritto da Fabio Stassi, pubblicato da Sellerio, e si chiama Mastro Geppetto, ed è esattamente quello che il titolo promette, ossia una cosa che nessuno scrittore ha avuto il coraggio di fare, giustamente, anche perché è un'operazione molto coraggiosa quella di Fabio Stassi, cioè di prendere, anche se questo è l'anno di Dante quindi forse non si dovrebbe dire, ma credo che sia il libro italiano più famoso nel mondo, sia Pinocchio, e lo riscrive interamente dal punto di vista di Geppetto, e ci rendiamo conto anche di alcune cose che forse erano lampanti, erano sotto gli occhi di tutti mentre leggevamo Pinocchio, l'opera originale, e lui ce la rismonta e ce la fa vedere sotto tutta un'altra chiave, quindi mi è piaciuto, mi sta piacendo molto, non l'ho ancora finito. Grazie Marco, un abbraccio. Grazie a voi. Segnalo, tu sei stato uno di quegli autori che non ha consigliato un libro della propria casa editrice. Alcuni lo fanno e quindi questo va detto, lo dico. Vabbè, abbiamo parlato finora di un anche come rimando per i prossimi che si alterneranno. Grazie Marco. Grazie Marco. Un abbraccio. Buona serata. Ciao.